Dialogo 42. Raccontò Mahmud bin Labid. Disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: quello che io temo maggiormente per voi è il mini politeismo. Gli fu chiesto: o apostolo di Allah, che cos'è il mini politeismo? Rispose: è l'ostentazione.